Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera ai nostri ascoltatori. Questa sera parliamo di due libri dedicati alla crisi che stiamo purtroppo vivendo un po' tutti. Il primo è scritto da un editore, dall'editore Fazzi, il dottore Rido Fazzi è qui con noi. Buonasera, dottor Fazzi. Buonasera. La terza guerra mondiale, punto di domanda, la verità sulle banche, Monti e l'euro. Il secondo libro, di cui parleremo dopo, è di Giancarlo Rovati, Uscire dalla crisi, i valori degli italiani alla prova. Ma stiamo sulla terza guerra mondiale, il libro scritto da Rido Fazzi, scritto in un weekend, dottor Fazzi. Sì, è scritto molto di getto, abbastanza rapidamente. Ecco, ma nonostante questo, lei lo ammette, è un libro ricco di esperienza, ricco di conoscenze all'interno di un sistema economico che vengono da lontano. Lei ha avuto molte esperienze sotto questo fronte. Dunque, io ho vissuto la globalizzazione prima all'interno di Business International, Group Economist, che era l'internazionalizzazione non finanziaria però, quella degli investimenti esteri, diretti, dell'economia, quella reale, poi c'era anche l'economia finanziaria, però quella che ho vissuto bene era fino agli inizi degli anni 90, era la globalizzazione guidata dagli investimenti esteri reali, e poi dopo ho visto un po' la globalizzazione con la finanziaria. Ecco, quando è stato il cambiamento, il salto di qualità dall'economia reale, all'economia della produzione, ovviamente assistita dalla finanza, all'economia della finanza assistita da se stessa? Ma secondo me il momento di passaggio, quello più importante, è stato la legge, quella che ha fatto Clinton nel 1999, la Financial Modernization Act. C'è questa legge che in pratica ha abolito le riforme che aveva fatto Roosevelt, ma le ha abolite definitivamente. Lì ha accelerato al di fuori di ogni, come dire, nessuno avrebbe potuto immaginare che ci sarebbe stato una esplosione così incredibile, no, della finanza a partire da quella legge. Quindi io la farei partire da Clinton. Ecco perché quando Obama ha vinto le elezioni, no, nel 2008, nel pieno della crisi, no, Obama era in campagna, si votava mentre falliva la Lehman Brothers, certo. Succedeva di tutto in America, e poi Obama si è trovato a dover fronteggiare una situazione in cui non è che poteva dare la colpa solo ai repubblicani, no? Perché la legge più importante della liberalizzazione finanziaria, la Financial Modernization Act, con cui chi è che si poteva mettere contro una cosa che si chiama la modernizzazione, certo, finanziaria? Ecco, però era una situazione, lei ricorda, in cui c'erano a 30 giugno 2011 700.000 miliardi di dollari in derivati a confronto a un PIL mondiale di 62.000 miliardi e un PIL italiano di 2.000 miliardi. Questo adesso, sì, allora ancora no. Il passaggio, certo, all'inizio del nuovo millennio, verso il 2000, più o meno l'economia finanziaria qui era equivalente al PIL mondiale. Questo passaggio da 10 a 1 di una massa monetaria, poi massa monetaria, è difficile anche, come dire, classificarla. Ecco, questa lei... massa di derivati, questa massa finanziaria che oggi è 10 volte il PIL, è stata tutta successiva a partire dal 2001, perché poi nel 2001 Greenspan decide di regalare il denaro in pratica, bassa i tassi, un po' quello che sta facendo Draghi. Certo. Ci sono stati tassi di interesse negativi in America per 30 mesi, mi sembra, 35 mesi. Ecco, non anticipiamo come finirà questa terza guerra mondiale, per fortuna combattuta solo a livello finanziario, anche se poi le conseguenze sociali sono certamente pesanti. Questo libro è un libro appunto che illustra la situazione anche dal punto di vista storico, come ha anticipato appunto Rido Fazzi. È un libro peraltro che ha anche una caratteristica strutturale, un ebook che costa solo un euro. Come mai questa scelta, dottor Fazzi? Ma perché stiamo tutti riflettendo sul futuro del libro, come si modificherà con il formato ebook, che cosa sarà il libro in futuro. Una delle idee che mi sono venute è appunto quella di fare una collana coinvolgendo anche altri autori, fra cui Mario Margiocca ad esempio, che ha già scritto un libro per noi e che comunque conosce molto bene la crisi perché lui era lì negli Stati Uniti, e certo, poi ci sono altre persone, quindi fare una sorta di cronaca a metà tra il libro e un giornalismo di approfondimento in cui si approfondiscono i temi e si fa una cronaca, un racconto della crisi e di come si evolve man mano che si evolve. Quindi in questo caso la collana è al prezzo di un euro, quasi quello di un giornale, è come se uno compra, vuole essere informato, leggere un articolo, ma in questo caso non è un articolo perché si tratta di un pamphlet di 100 pagine, richiede un po' più di sforzo, però l'idea della semplicità, della massima semplicità, di riuscire incredibile a leggere questi libri in cui tutti possono capire. Io ho fatto dei test con persone che conoscono molto poco di economia, però il tentativo è di veramente di fare un'opera di divulgazione popolare su questi temi, cercando di far capire che cosa stiamo vivendo. E quindi noi stiamo vivendo una situazione veramente diversa dalle precedenti. Io posso, ho 60 anni e posso dire tranquillamente che una situazione così non l'ho mai vista. Una situazione di questo tipo nell'economia nessuno di noi l'ha mai vissuta e nessuno di noi sa come ne usciremo. Non mica siamo usciti dalla crisi, al di là di quello che gli spread si abbassa di qualche punto o meno, i problemi strutturali rimangono tutti e non solo, ma soprattutto Wall Street ha ripreso a lavorare come prima. Non si può tenere un sistema così, no? E quindi secondo me... Ecco, importante è capire come funziona questo sistema, cercare di limitare soprattutto le conseguenze sociali, perché indubbiamente uno dei grandi problemi è quello di una disoccupazione che sta crescendo. Per capire allora questo libro che inaugura una collana, Elido Fazzi, La terza guerra mondiale, la verità sulle banche, Monti e l'euro. Grazie dottor Fazzi e passiamo all'altro libro. Dopo aver parlato del libro La terza guerra mondiale di Elido Fazzi, parliamo con Giancarlo Rovati. Buonasera Rovati. Buonasera. Giancarlo Rovati è professore ordinario di sociologia generale a scienze politiche della Cattolica di Milano e ha curato il libro Uscire dalla crisi, i valori degli italiani alla prova. Con Fazzi abbiamo visto che la crisi è complessa, difficile e dalle prospettive incerte, soprattutto da un profilo finanziario ed economico, Rovati pone soprattutto in luce quelli che sono i cambiamenti sociali, i valori di fondo a cui fanno riferimento gli italiani in questo momento. Ecco, ci sono dei grandi cambiamenti provocati dalla crisi, professor Rovati? Intanto vorrei chiarire che si tratta di una ricerca che si è svolta contemporaneamente in 47 paesi europei, tutti coloro che appartengono al Consiglio d'Europa. Ed è un'indagine che si fa ogni 9 anni sui valori degli europei, in sigla è EVS. Perciò è possibile anche fare un confronto come eravamo e come siamo, perché abbiamo partecipato dall'81 in poi. Paradossalmente non ci sono dei grandi cambiamenti, almeno se guardiamo ai principali indicatori. Il posto che occupa la famiglia, il lavoro, la religione, il tempo libero, gli amici, nel grado di importanza degli italiani. E da questo punto di vista forse la crisi ha reso anche più evidente quali sono le cose più importanti. Ma dire che il valore è la famiglia o il lavoro non significa che non ci siano problemi anche a riguardo della famiglia e anche a riguardo del lavoro. Ecco, però è un cambiamento che avviene forse un po' a prescindere dalla crisi, c'è un cambiamento di più lunga durata che non provocato dagli avvenimenti degli ultimi 4 anni. Sì, beh, intanto l'indagine è stata fatta alla fine del 2009. In un momento in cui si pensava e si sperava che la crisi fosse una piccola parentesi. Invece stiamo constatando che quanto è avvenuto a partire dal 2008 ha sconvolto in modo durevole gli equilibri economici, non ancora quelli sociali. Perciò c'è anche una fiducia che resta degli italiani nella possibilità di migliorare la propria condizione. Ecco, in questo senso come sono cambiati nel più lungo periodo gli atteggiamenti, i valori di fondo? C'è quello che viene chiamato un po' una secolarizzazione, una ricerca più delle posizioni individuali che non quelle collettive, un po' un tramonto della famiglia tradizionale? Sì, diciamo che abbiamo studiato i percorsi di coppia, e cioè i percorsi attraverso cui le persone arrivano a costruirsi una famiglia. E a questo punto di vista però è interessante notare che le persone coniugate, che quelle conviventi, che quelle separate ritengono che la fedeltà coniugale sia un valore. 8 italiani su 10 e indipendentemente dalla condizione di stato civile in cui sono. Questa è una conferma della importanza che ha avere dei punti di riferimento stabili, basati sulla fiducia, non tanto su un legame giuridico. Possiamo dire che la famiglia ha una realtà un po' diversa dall'immagine che spesso i mezzi di comunicazione proiettano nella società? Beh sì, noi abbiamo un 78% di intervistati che sono coniugati, poi abbiamo un 10-12% di persone che hanno fatto famiglia in un modo diverso, che sono poi i modi più sotto i riflettori anche dei media. Però è proprio anche tra queste persone, che la fiducia e soprattutto la fedeltà rappresentano dei valori. Ecco, valori appunto da non perdere di vista in un momento in cui la crisi economica sembra condizionare molto, ma per appunto verificare e analizzare anche come stanno cambiando questi valori, il libro di Giancarlo Rovati, che ringraziamo di essere stato con noi questa sera, è Uscire dalla crisi, l'editore Vita Pensiero, i valori degli italiani alla prova, 512 pagine per 25 euro. Grazie a Giancarlo Rovati, così come ringrazio Luca Cremonese, Stefania Tagliaferri in redazione e Peter Bascapè in regia. L'appuntamento con Economia in Pagine per sabato prossimo.